notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La Svizzera sgancia il franco dal cambio fisso 1,2 per un euro. Crolla la borsa di Zurigo che perde l'11%. L'amministratore delegato di Swatch dice: è uno tsunami, non ho parole. Primo giorno da presidente emerito e Napolitano scherza coi giornalisti: abituiamoci a vederci senza armi. Parte un Toto Quirinale che rischia di durare almeno 2 settimane. 4 ubriachi investono una poliziotta e Parigi ripiomba nella paura. La Lega Araba intanto annuncia una forza di intervento contro il terrorismo. 2 vittorie al Superenalotto in 2 giorni in un bar di un paesino in provincia di Catanzaro. Indagano i Monopoli e la Sisal, ma per il momento sembra tutto regolare. Gli uffici dei vigili di Milano al collasso dopo l'invio di 700.000 verbali di multe non pagate del 2011. Un caso che si potrebbe ripetere in altre città quando tutti i comuni lasceranno Equitalia. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti, come sempre, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno e durante la diretta il 349-238-6666. Iniziamo parlando di economia perché è arrivata a freddo la decisione della Banca Centrale Svizzera di sganciarsi dal cambio fisso questa mattina. Una vicenda che sta creando molti movimenti naturalmente, soprattutto sulla borsa di Zurigo, ma anche naturalmente sul mercato dei cambi. Dunque partiamo da questa decisione, poi andremo ai dettagli su quello che sta succedendo sui mercati. Lino Terlizzi da Lugano, buongiorno Lino. Allora, che cosa ha deciso, se ci puoi dare qualche dettaglio, la Banca Centrale? Sì, la Banca Nazionale Svizzera ha deciso a sorpresa di eliminare la soglia di cambio di 1,20 franchi per un euro, soglia che era in vigore da 3 anni, da più di 3 anni, dal settembre del 2011. Nel contempo la stessa Banca Nazionale ha anche accentuato i tassi negativi sul franco per evitare l'apprezzamento eccessivo della moneta elvetica. Questa d'altronde era lo stesso scopo della soglia di cambio, non essendoci più, ha accentuato i tassi negativi, ma questo non è bastato. Per i mercati c'è stato subito un immediato forte apprezzamento del franco, che adesso viaggia attorno all'1 a 1 con l'euro. È una svolta naturalmente considerevole. Considerevole. Lino, ci sono a questo punto molte preoccupazioni, tra un attimo andremo con la nostra Deborah Rosciani a fare un punto proprio sui mercati. Ci sono naturalmente molte preoccupazioni del mondo dell'economia. Sentivamo poco fa nei titoli l'amministratore delegato di Swatch che dice è uno tsunami per il paese. UBS dichiara proprio in questi minuti che la decisione avrà un grande impatto negativo sull'economia del paese. C'è grande preoccupazione dunque. Assolutamente, perché le esportazioni sono una voce molto importante per l'economia elvetica, economia che in questi anni si è comportata meglio di molte altre economie dei paesi industrializzati, secondo molti proprio grazie anche a questa soglia di cambio che ha impedito un franco troppo forte. E quindi ci sono preoccupazioni nel mondo delle esportazioni elvetiche. Dal punto di vista della piazza finanziaria ci sono altre preoccupazioni, ma forse minori. Il punto è proprio che cosa accadrà ora per le esportazioni della Svizzera, oltre che sui mercati finanziari. Grazie intanto a Lino Terlizzi per questi aggiornamenti e per questo collegamento. Il punto sui mercati dunque, perché l'impatto si è fatto sentire non solamente sulla borsa di Zurigo, non solamente nel cambio tra euro e franco, ma anche nel cambio tra euro e dollaro. Deborah Rosciani, così no? È così, l'effetto è a dir poco dirompente sui mercati. Io ho davanti a me in questo momento proprio tutto l'intero listino svizzero ed è, come si potrebbe dire in termini anche un po' brutali, un bagno di sangue. Il peggior titolo adesso è Julius Baer, quindi settore finanziario, -22,5 punti, ma ci sono anche proprio anche tutte le società che naturalmente esportano molto e che risentono in maniera pesante di questo violento apprezzamento del franco registrato da 2 ore a questa parte. Richemont, quindi parliamo di moda, -16%, la stessa Swatch che hai citato poco fa, -16%, settore farmaceutico Novartis meno 14, non si salva nessuno, il miglior titolo è UBS che perde più di 2,5 punti. Parlavamo appunto dell'effetto anche sugli altri fronti valutari, il franco si è apprezzato ai massimi livelli dal 1980 sullo yen, l'euro è scivolato fino a 1,1578 sul dollaro, quindi il dollaro il grande protagonista di queste ore che risente a suo vantaggio di questa situazione, e poi abbiamo l'andamento delle borse, il listino svizzero è in calo di 11,5 punti, le borse europee dopo la decisione della Svizzera hanno avuto un calo repentino, sono arrivate a perdere quasi 1,5 punti dopo che erano partite stamattina con un rialzo di quasi 1,5 punti, adesso si stanno riassestando, hanno ripreso quota, Milano è a più 0,8 e ancora negativa Parigi, Francoforte più 0,3, Londra meno 0,20, il fermento insomma stamattina Simone non manca. Grazie Deborah Rocciani, naturalmente continueremo ad aggiornarvi anche sull'andamento dei mercati come sempre nell'appuntamento usuale delle 13:30. Passiamo alla politica italiana, il giorno dopo le dimissioni del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il primo giorno da Presidente emerito. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. Napolitano subito al lavoro nel suo studio di senatore a vita a Palazzo Giustiniani, ufficio al quarto piano nell'edificio in via della Dogana Vecchia che da ieri è sede di fatto del Presidente della Repubblica supplente, ossia del Presidente del Senato Grasso. Quanto a Napolitano gli è stato chiesto se parteciperà già la prossima settimana alle votazioni sulla legge elettorale. Vedremo cosa si vota e se io sono immediatamente nelle condizioni di partecipare, ha replicato l'ex capo dello Stato. La corsa per il Quirinale da ieri è partita intanto ufficialmente con le forze politiche però che per il momento non propongono nomi per la paura di bruciarli, è questa una fase utile allora per mettere dei reciproci paletti. Partiamo da Berlusconi che ha detto credo sia giusto pretendere di avere un presidente che non sia un seguito di 3 presidenti di sinistra che hanno portato questo paese a questa situazione non democratica. No ad un nome di sinistra, aggiunge Salvini, replica di Renzi, se Berlusconi dice no al nostro candidato per il Quirinale ce lo eleggiamo da soli, vorrei essere chiaro, aggiunge il Premier, nessuno mette veti, non Forza Italia, non Salvini e nemmeno il Partito Democratico. Renzi auspica quindi un coinvolgimento del Movimento 5 Stelle. I grillini replicano, ci venga a chiedere i voti se vuole tenere in piedi questa legislatura. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, e proprio con un esponente del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico, parleremo intorno alle 13:15 per capire qual è la posizione del Movimento su questi temi e sull'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Sulla quale naturalmente, e come sempre, rischiamo di trascinarcela per le prossime 2 settimane, è partito il Toto Nomine. Per ora l'unico punto fermo è la prima convocazione delle Camere il 29 gennaio alle 15. È da quel momento che 1.009 grandi elettori, 630 deputati, 315 senatori e 58 delegati regionali sfileranno sotto il banco della Presidenza della Camera per depositare nel segreto dell'urna la scheda con il nome del successore di Giorgio Napolitano. Ma la prima votazione, come le altre due, probabilmente il giorno seguente, sono le più difficili. La maggioranza infatti di 2/3, 672 elettori. È questa la ragione per cui gli occhi sono puntati sul quarto scrutinio che potrebbe svolgersi tra sabato 31 e lunedì 1 febbraio, quando basterà una maggioranza assoluta di 505 voti. A quel punto il PD, che da solo arriva a quasi 450 grandi elettori, potrà condurre più facilmente il suo gioco. Intanto le regioni si stanno già muovendo, hanno già cominciato ad eleggere i loro 58 grandi elettori, 3 per ogni regione, uno solo per la Valle d'Aosta. Tra i favoriti nella corsa al Quirinale oggi bookmaker danno a pari merito Romano Prodi e Walter Veltroni, a seguire Stefano Rodotà e poi Sergio Mattarella, Paolo Gentiloni. Divisi invece sulle possibilità di un presidente donna, chi punta su Laura Boldrini, chi invece su Anna Finocchiaro. Ma la partita, si sa, è solo all'inizio. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. E veniamo all'editoriale del direttore di Radio 24 e del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano. Helmut Kohl non dice una parola in inglese neanche in francese, parla in tedesco, ha buttato giù il muro di Berlino e riunito un popolo, ha imposto una tassa di solidarietà trentennale ai cittadini della Germania dell'Ovest per la ricostruzione avvenuta dell'Est, ha messo le basi per una Germania europea e non un'Europa germanica. La forza politica e la statura internazionale di Kohl sono state preziose per il suo paese al punto da essere stato scalfito solo marginalmente dallo scandalo dei fondi neri alla CDU. L'assenza a fasi alterne di altrettanta lucubranza nei suoi successori pesa sulla costruzione di una nuova Europa politica fuori dagli egoismi nazionali. questa statura internazionale serve oggi a un paese come l'Italia, che vive una transizione complicata e fatica a conquistare la normalità. Nel novembre del 2011 l'Italia era un passo dal fare la fine della Grecia. Oggi il destino della nuova Europa è appeso al risultato delle elezioni greche e alla durezza o meno delle stringhe tedesche di Europa e BCE. Lo abbiamo già detto, lo ripetiamo, per il Quirinale non è tempo di sperimentazioni. Lo stato di necessità che spinse Napolitano alla supplenza in quella fase delicatissima, nessuno lo auspica, ma nulla permette di escluderlo. Per questo servono la testa e le mani esperte di un presidente all'altezza del compito, che sappia guidare la conciliazione tra partiti e paese reale e abbia il rispetto di chi lo vota e di chi non lo vota. Avere un capo dello Stato di statura internazionale può aiutare a riempire quella sala vuota di Strasburgo che ha ascoltato il discorso di chiusura della presidenza di turno italiana e a raccogliere i frutti della semina di una nuova Europa espansiva e solidale, che segna la cifra più rilevante dell'impegno politico internazionale di Renzi. Il dopo attentato di Parigi, ora, iniziando dalle parole del Papa di poco fa, dice Francesco: la libertà di religione è essenziale, non si uccide in nome di Dio la libertà di espressione, aggiunge, è un diritto ma anche un dovere, neppure si offende la religione, aggiunge il Papa, ma in questo caso non si reagisce con la violenza. Intanto a Parigi, si diceva, a Parigi basta un incidente provocato da quattro ubriachi a scatenare di nuovo la paura. I nervi dei francesi sono parecchio tesi se, come è accaduto questa mattina, un normale incidente d'auto, seppure di fronte all'Eliseo, è bastato a buttare giù dal letto François Hollande, che, avvertito, si è subito precipitato all'ingresso della sede dove ufficialmente risiede il presidente e dove una poliziotta di guardia era stata investita da un'auto con quattro persone a bordo. La donna è rimasta ferita, il conducente e un passeggero sono stati arrestati. Attentato. In realtà si trattava semplicemente di un 19enne che è entrato in contromano nella strada e per questo, andato nel panico, ha investito la donna. È stato arrestato perché, dopo l'incidente, è scappato a piedi insieme a un altro passeggero. Falsi allarmi involontariamente provocati o volontariamente, come nel caso di quello di Fiumicino, dove un ingegnere sloveno aveva detto ieri di avere caricato a bordo di un aereo una bomba, allarme che appunto si è rivelato poi falso. Nell'attesa di capirlo, però, l'Airbus A320 della Niki, diretto in Austria, è stato bloccato per ore per essere perlustrato dagli artificieri. L'uomo è stato denunciato per procurato allarme. L'aereo è regolarmente decollato stamattina, ma 5 degli 80 passeggeri, dopo una notte di ansia in albergo, hanno rinunciato al volo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è in corso un discorso del presidente francese François Hollande all'Istituto del Mondo Arabo di Parigi. Dice: sono i musulmani a essere le prime vittime del fanatismo, del fondamentalismo e dell'intolleranza. Così il presidente francese. Intanto la Lega Araba starebbe studiando una forza di intervento rapido contro il terrorismo. Questo da dichiarazioni ufficiali di queste ore. Chiediamo conto e chiediamo la sua opinione ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Alberto, buongiorno. Cosa ne pensi? Dunque, come diceva Hollande, in effetti i musulmani sono le prime vittime del terrorismo. Secondo l'indice globale del terrorismo di quest'anno, gli attentati sono stati nel mondo 9.800, i morti 18.000, il 65% delle vittime e l'80% degli attentati sono stati in paesi come l'Afghanistan, il Pakistan, l'Iraq, la Siria, la Nigeria, cioè i paesi del mondo musulmano. Ora, questa notizia che arriva oggi dal Cairo in qualche modo ci conforta. Avere una forza di intervento rapido in un futuro da parte degli arabi potrebbe essere una buona cosa, però dobbiamo anche dire qualche cosa di più, cioè che alcuni di questi paesi che oggi sono riuniti per decidere questa forza di intervento arabo sono anche dietro alcuni dei movimenti terroristici, li hanno sponsorizzati, il Qatar, l'Arabia Saudita, gli Emirati, insomma hanno dato soldi, finanziato e appoggiato e appoggiano ancora alcuni di questi movimenti, per esempio quelli attivi in Siria contro Bashar Assad. Quindi insomma bisogna anche uscire da certe contraddizioni che lacerano il mondo arabo e non da oggi. Grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Passiamo a parlare di scuola, perché sono al via oggi le iscrizioni al primo anno per i ragazzi di terza media. È il momento di scegliere la scuola superiore. Un mese di tempo è quanto hanno a disposizione le famiglie da oggi per andare sul sito del Ministero dell'Istruzione, registrarsi e iscriversi alla scuola desiderata. La procedura online è obbligatoria anche quest'anno per tutti gli ordini di scuola, dalla primaria alla secondaria superiore. Escluse invece la scuola dell'infanzia e le paritarie. E per i ragazzi della terza media è arrivato il momento di scegliere la scuola superiore. Sono quasi il 30% i ragazzi ancora indecisi, secondo un sondaggio realizzato da Scuola.net in collaborazione con Radio 24, a cui hanno partecipato circa 5.000 studenti. E nonostante i grandi passi avanti fatti dalle scuole per aiutare ragazzi e famiglie nella scelta, dal sondaggio si scopre che il 14,5% degli istituti non ha organizzato alcuna attività di orientamento, il 44,6% non ha fatto svolgere agli studenti il test per capire il tipo di scuola più adatto, il 27,7% degli studenti non ha partecipato ad alcun open day delle superiori, le giornate in cui le scuole espongono la loro offerta formativa. Tanti, troppi. Frequentare la scuola sbagliata per 5 anni può diventare davvero faticoso. Da oggi c'è un mese per scuole, famiglie e studenti per fare meglio i compiti. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sarà proprio la nostra Maria Piera Ceci a condurre questa sera lo speciale di Radio 24 dedicato a quali superiori scegliere, dalle 22 in diretta con il ministro Stefania Giannini, i nostri esperti e naturalmente le vostre domande da casa. Traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. La Svizzera sgancia il franco dal cambio fisso a 1,2 per un euro, crolla la borsa di Zurigo che perde l'11%, effetti su tutto il mercato dei cambi. L'amministratore delegato di Swatch dice: è uno tsunami, non ho parole. Primo giorno da presidente emerito, Napolitano scherza coi giornalisti: abituiamoci a vederci senza armi, facendo riferimento a telecamere, macchine fotografiche. Parte un Toto Quirinale che rischia di durare almeno 2 settimane. 4 ubriachi investono una poliziotta a Parigi, ripiomba nella paura la Lega Araba. Intanto annuncia una forza di intervento contro il terrorismo. 2 vittorie al Superenalotto in 2 giorni in un bar di un paesino in provincia di Catanzaro. Indagano i monopoli e la Sisal, ma per il momento sembra tutto regolare. Tra poco andremo a parlare anche con un responsabile della Sisal che si occupa di queste cose. Io intanto però saluto Roberto Fico del Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione di Vigilanza RAI e membro di quello che forse impropriamente abbiamo definito il direttorio, insomma quelle 5 persone scelte come dire, per fare da supporto a Beppe Grillo nella guida del Movimento. Fico, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, salve. Allora, con lei vogliamo parlare innanzitutto delle questioni che riguardano il Quirinale. Vorrei capire questo, naturalmente immagino che andrete a un certo punto a votare in rete come avete fatto l'altra volta. Vorrei capire se il procedimento sarà quello delle cosiddette quirinarie, cioè una lista di nomi sulla quale poi si andrà a votare, oppure se potrete mettere ai voti anche nomi proposti per esempio dal Partito Democratico. Noi in questo momento siamo in elaborazione, quindi non le dico niente su questo punto, però la cosa che mi preme affrontare è che guardando dall'interno... E questo vuol dire, Fico, che su queste ipotesi ci state riflettendo, cioè non stiamo è... Stiamo lavorando. Esatto, cioè non è esclusa nessuna delle due, ecco, per essere molto chiari. Stiamo lavorando, è come normale che un movimento come il nostro faccia in una fase anche così delicata, perché quello che mi preme dire è che dall'interno delle istituzioni quello che si vede è molto deprimente, perché il capo dello Stato è una figura importante che deve garantire tutto l'assetto istituzionale, tutte le forze politiche e soprattutto i cittadini, e pensare che questa figura viene legata al patto del Nazareno, quindi significa che è una repubblica del ricatto all'interno di questo patto che non riusciamo a capire, a comprendere ancora, ma magari lo sappiamo ma non ufficialmente, tutto ciò che si sono promessi, prima la legge elettorale, poi le riforme costituzionali e poi magari il 24 dicembre la legge ad personam per Berlusconi e poi magari la falsa abolizione del falso in bilancio. E capiamo che siamo in una repubblica di un ricatto e noi dobbiamo cercare di sbrogliare questa matassa veramente insulsa. Mi sembra però, Fico, da quel che mi diceva all'inizio, che tutto sommato c'è un'apertura generale a valutare varie ipotesi, nel senso che se il nome che esce fosse un nome che ritenete di garanzia è una cosa che potete valutare, insomma. Ma questa è una cosa che abbiamo detto da molto tempo, non solo in questi giorni. È chiaro che se dovesse mai venire fuori un nome importante che sia da garanzia per tutti i cittadini italiani italiani, e secondo me una persona onesta, normale, che mette al primo punto l'anticorruzione, che non firmi tutte le schifezze che ha firmato questo Presidente della Repubblica, come il lodo Alfano, come il legittimo impedimento, che infatti dopo sono stati dichiarati incostituzionali, quindi che sia anche più lungimirante rispetto a quello che la nostra Costituzione ci dica, non vedo perché ci dovremmo in sé sottrarre, ma sempre poi con un percorso partecipato, trasparente e chiaro, quello che questo Parlamento non fa mai, e in rete con tutti gli iscritti del Movimento. Se noi su questo non abbiamo nessun tipo di problema, noi aspiriamo al meglio per il Paese, a noi ci muove sempre il bene comune, mai interesse di parte o di partiti, fanno queste persone. Senta Fico, che tempi vi siete dati per decidere la modalità? Aspettate una prima mossa dal partito di maggioranza relativa, come forse anche giusto che sia, ossia il Partito Democratico, o vi muoverete autonomamente? Ma io le dico, noi stiamo lavorando, tutto qui, stiamo lavorando e poi vedremo se domani il Partito Democratico o la maggioranza parlamentare, che poi è tutto il Parlamento in effetti, purtroppo contro il Movimento 5 Stelle, farà una mossa, vedremo che tipo di mossa faranno, ma tutto qui. A me quello che preme spiegare a tutte le persone che anche in questo momento ci ascoltano è che a volte il Presidente della Repubblica, almeno sempre, sembra un problema personale dei partiti. Allora il Presidente della Repubblica alla fine deve garantire questi partiti, questo sistema, deve essere autoreferenziale, e quindi una persona fuori da questi schemi che garantirebbe invece tutti i cittadini italiani, magari per come... Quindi un non politico sarebbe la figura ideale? No, io sto facendo delle ipotesi di ragionamento, sì, cioè, ovvero come queste persone ragionano. Queste persone ragionano che lì ci deve essere una persona che non garantisca l'assetto istituzionale, ma garantisca i partiti e questo sistema autoreferenziale, come ha fatto Napolitano per 9 anni. È questo quello che cercano loro. Allora noi stiamo dicendo che vogliamo invece una persona che garantisca tutti i cittadini italiani. Io ho fatto un'intervista. Quindi ripeto, Fico, quindi non escludete che possa essere anche un politico se offre quelle garanzie. Deve essere una persona che, le ho già detto, mette al primo punto tutta una serie di tematiche che sono care agli italiani, l'anticorruzione, la lotta alla mafia. Cioè, se io penso che questo presidente ha fatto alla fine distruggere le intercettazioni nella trattativa, Stato mafia, e ha delegittimato i giudici di Palermo, è chiaro che io voglio una persona totalmente diversa. Noi dobbiamo sempre ricordare queste persone, chi hanno eletto 2 anni fa, hanno eletto il Napolitano bis, Re Giorgio, e io quel giorno ero in Parlamento, prima delle elezioni, il giorno prima delle elezioni di Napolitano, e i deputati del PD ancora non sapevano bene chi dovevano votare o come sarebbe finita questa storia. Alla fine, dopo che si sono incontrati in una stanza segreta, 2 persone, Bersani e Berlusconi, arrivò un altro deputato che disse: ecco, è Napolitano, e tutti quanti tornarono nei loro posti e si andò verso Napolitano. Sì, cioè, fanno le cose in questo modo, non rispettando i cittadini da nessun punto di vista. Fico, mi ascolti, le ho fatto una domanda precisa, mi risponde solamente a questa. Cioè, dico, se fosse una persona di garanzia, potrebbe andare bene anche un politico, sì o no? Se è una persona di garanzia, può andare bene un politico o non politico, certo. Se è una persona di garanzia che sia davvero garante per quello che la Costituzione recita, e quindi dei poteri dello Stato, dell'indipendenza tra poteri, garante dei cittadini, garante del Parlamento, garante delle opposizioni, qual è il problema? Nessun problema. Della Repubblica. L'ultima domanda che le voglio fare è nel suo ruolo istituzionale, ossia di Presidente della Commissione di Vigilanza RAI, perché in questi giorni ci sono state, come saprà, tantissime discussioni in merito alla copertura che la RAI ha offerto agli attentati di Parigi. Mi riferisco alle 3 reti principali, RAI 1, RAI 2 e RAI 3. Avete intenzione di audire Gubitosi? Si è fatto un'idea del perché è successo? Ha un giudizio? Io le dico che la Commissione il giorno dopo ha inviato subito, quindi immediatamente, una lettera al direttore generale chiedendo perché in prima serata c'era stata questa mancanza di copertura e di approfondimento. È arrivata una risposta alla Commissione di Vigilanza in cui nella parte finale si ammette il grave errore, e alla fine la procedura proprio in questi giorni per il cambio dei palinsesti è stata definitivamente modificata per riuscire a fare nelle emergenze un cambio di palinsesti più rapido e migliore. Quindi grazie proprio alla pressione della Commissione di Vigilanza tutti abbiamo ottenuto un buon risultato in RAI, che da domani non sarà più possibile quello che è successo con gli attentati di Parigi. Grazie Roberto Fico, Presidente della Commissione di Vigilanza RAI e componente del gruppo di 5 persone, del Movimento 5 Stelle, che affianca Beppe Grillo e Roberto Casaleggio. Parliamo di una maxi operazione contro un traffico di rifiuti illeciti. C'erano anche gli abiti usati tra i rifiuti speciali che trattava l'organizzazione criminale sgominata questa mattina dalla polizia dopo le indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Indumenti usati, prodotti tessili e accessori di abbigliamento provenienti dai contenitori gialli della raccolta in strada, che invece di essere donati ai poveri, finivano per essere rivenduti in diversi paesi europei ed africani senza alcuna accortezza per pulizia e igienizzazione. Al vertice dell'organizzazione Pietro Cozzolino, dell'omonimo clan camorristico di Portici Ercolano, già condannato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, come del resto il fratello Aniello Cozzolino, al suo fianco anche in questa impresa. 14 in totale gli arresti tra Roma, Napoli e Salerno per associazione per delinquere finalizzata appunto al traffico di rifiuti speciali. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Saluto Mario Martinelli, che è responsabile IT, Information Technology, il gruppo Sisal. Buongiorno Martinelli, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Ascoltatori, però va bene lo stesso. Parliamo della vicenda di Monte Paone, un paesino della provincia di Catanzaro, nella quale in 2 giorni ci sono state 2 vincite al Super Enalotto, non con la stessa schedina, con una schedina diversa, un 6 e un 5 stella. Una probabilità su quanti milioni, Martinelli? Ma guardi, i calcoli esatti non li abbiamo fatti, sicuramente è una casistica che ovviamente è altamente improbabile statisticamente, però come abbiamo anche da nostra esperienza internazionale sono casi che comunque possono capitare. Possono avvenire, perché solo il 6 al Super Enalotto è una probabilità su 622 milioni, no, se non sbaglio? Corretto. Ma guardi, il 5 stella è una probabilità su 112. Il sì, fatto che questo avvenga nello stesso paese, nello stesso bar, nel giro di 2 giorni è una cosa che penso siamo nell'ordine dei miliardi addirittura. Sicuramente da un punto di vista statistico è vero. Se prendiamo un caso per esempio negli Stati Uniti, lo stesso giocatore nello stesso punto vendita nell'arco di pochi anni ha vinto 2 volte al 2 delle principali lotterie internazionali. Quindi diciamo che da un punto di vista statistico è sicuramente improbabile, ma come diciamo solitamente la fortuna è cieca. Quindi da questo punto di vista noi parliamo poi dello stesso punto vendita, ma ovviamente non dello stesso giocatore, che non sappiamo ovviamente chi sia, o comunque non potreste rivelarlo. Martinelli, voi avete come azienda naturalmente aperto un'indagine, e si è aperta un'indagine anche dei monopoli di Stato, perché qualche sospetto che sia stato hackerato il sistema c'è ovviamente. Avete riscontrato qualcosa? Ma guardi, da parte nostra parlare di indagine interna è un po' fuorviante, nel senso che noi siamo certificati con le regole internazionali che da questo punto di vista, sia dal punto di vista di processi che di sistemi, garantiscono l'assoluta inviolabilità dei nostri sistemi. Da un punto di vista più tecnico posso dire che i nostri sistemi di lotterie sono sistemi totalmente chiusi, quindi non aperti a internet, quindi non soggetti a possibilità di attacchi hacker o di possibilità comunque di compromissione all'integrità delle informazioni o comunque alla garanzia più assoluta che il processo avvenga secondo quanto stabilito dai monopoli. Dopodiché e non sono possibili, Martinelli, non sono possibili manomissioni a valle, ossia sulla macchina? Assolutamente no, il processo, ribadisco, è strettamente controllato in tutte le estrazioni con i monopoli di Stato. Sottolineo che i monopoli, il processo di spoglio, che diciamo è il processo che associa l'estrazione alle combinazioni giocate, è un processo che avviene su due sistemi paralleli, uno per i monopoli e uno per i nostri sistemi, proprio a garanzia del fatto che il risultato deve essere assolutamente identico, e questo proprio per garantire che l'inviolabilità e l'integrità dell'informazione sia assolutamente certa, ovviamente a garanzia dei giocatori. Quindi ci conferma Martinelli, Martinelli, che da quel che siete riusciti a verificare, voi da quel che avete verificato, è un fatto puramente casuale. Assolutamente certi. Grazie a Mario Martinelli, responsabile IT del gruppo Sisal, per essere stato con noi. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo per i mercati in una giornata particolarmente importante, come avete sentito dalle nostre notizie di apertura. La Svizzera ha sganciato il franco a cambio fisso a 1,2 per un euro, e questo naturalmente sta avendo un impatto importante sui mercati. A tra un attimo. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E veniamo adesso a parlare di una vicenda che parte da Milano, ma che però potrebbe arrivare a riguardare molte altre città italiane. Che cosa è successo? È successo che il capoluogo lombardo si è sganciato da Equitalia per quanto riguarda la riscossione delle multe, e in questi giorni un vero e proprio caos negli uffici dei vigili, perché sono state contestate 800.000 sanzioni arretrate, e quindi ci sono delle file incredibili, fino a 700 persone al giorno, e naturalmente molti problemi di gestione, ma naturalmente anche dubbi su come è stata gestita la cosa. Ed è per questo, e ne vogliamo chiedere conto, e poi verremo con Gianni Trovati, che è già in studio con noi, a parlare di delle altre città e di quello che può succedere. Marco Granelli, assessore alla sicurezza e coesione sociale, polizia locale, protezione civile, volontariato, tante deleghe del Comune di Milano. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno Granelli, che cosa è successo? Noi per la prima volta, sostituendo Equitalia, abbiamo deciso di non mandare subito a ingiunzione, cioè questi sono i verbali del codice della strada del 2012, cioè multe del 2012 che i cittadini non hanno pagato, e la legge dice che devono andare a ingiunzione di pagamento, e di solito si veniva a quelle che mandavamo a Equitalia, e la legge dice che viene applicato una maggiorazione del 10% di ogni semestre. Noi, per venire incontro ai cittadini, abbiamo deciso di, prima di fare l'ingiunzione, di mandare un avviso bonario ai cittadini, dicendo: guarda, prima di mandare l'ingiunzione ti rimando il verbale, sì, così se tu ce lo paghi entro 30 giorni non paghi queste maggiorazioni, che vuol dire 10% ogni mese, vuol dire che uno bene o male si pagava il 40% certo, in più. Quindi abbiamo mandato questo di tutti i verbali del 2012, perché noi stiamo in questi anni diminuendo il tempo d'attesa. Ci sono però Granelli, leggo che ci sono anche quelli del 2011. C'è l'ultimo quadrimestre del 2011, e sono quelle che noi abbiamo mandato in marzo, questa lettera bonaria. Alcuni cittadini hanno pagato, e queste sono dei cittadini che non hanno pagato nel 2011, che a marzo del 2014 gli abbiamo mandato l'avviso bonario e non hanno pagato ancora. A questo punto gli abbiamo mandato, come prevede la legge, l'ingiunzione. E noi crediamo che sia giusto mandare un'ingiunzione di pagamento nei confronti di tutti gli altri cittadini, che sono la maggioranza, che hanno pagato la sanzione. Allora, con Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Gianni, è un caso in sé questo di Milano, ma è un caso che si potrebbe ripetere? Sì, anzitutto buongiorno. La particolarità di Milano è che questa vicenda si incrocia poi con l'impennata delle multe per gli autovelox, i milanesi li conoscono, e quindi crea un ulteriore, diciamo, traffico di verbali, avvisi bonari e quant'altro. Ma alla base di questo, lo accennava lo stesso assessore all'inizio, c'è il fatto che il Comune ha sostituito Equitalia, ed è una vicenda che dovrà potrà, vedremo, perché le norme sono in un limbo da anni, accadere in altri comuni. Cosa sta succedendo alla riscossione dei comuni? La riscossione è in moltissimi comuni, in migliaia di comuni, ancora affidata a Equitalia. Se vi ricordate, nel 2011, nell'ambito delle polemiche sui metodi di riscossione di Equitalia, si disse che i comuni avrebbero dovuto fare una riscossione diversa. Lo slogan era la riscossione dal volto umano. si abrogò, diciamo, il ruolo di Equitalia e si disse dal 31 dicembre Equitalia non lo farà più, verrà sostituito da altri. Sono passati 3 anni e mezzo, nessuno ha pensato a disciplinare questo passaggio di sostituzione, e chi, come, con che criteri, con che strumenti deve sostituire Equitalia nella riscossione dei tributi comunali. E naturalmente la riscossione non è un settore poco delicato, qualsiasi cosa può, diciamo, scatenare il caos come succede adesso, e lasciarla in un limbo per 3 anni e mezzo non è stata la scelta più saggia. Assessore Granelli, forse non eravate pronti e rischiano di non essere pronti anche gli altri comuni ad assumere una funzione così, così importante? No, no, io questo contesto, perché non è che cioè, il caos mi permetta. Noi abbiamo ripreso le sanzioni, abbiamo fatto l'interesse dei cittadini, perché il cittadino che ha pagato la multa e quello che non l'ha pagata, io devo andare a riscuotere quello che non l'ha pagata, altrimenti se io lascio passare il tempo e mando in prescrizione, passa il concetto che il cittadino che ha pagato è fesso e quello che non ha pagato è furbo perché non la pagherà mai, mentre noi crediamo che se c'è stata una sanzione, se la sanzione è giusta, se il cittadino ritiene che la sanzione è sbagliata può fare ricorso ed è giusto, ci sono certo. Tutti gli strumenti, poi ci possono essere gli errori e nei confronti degli errori anche adesso noi stiamo intervenendo e mandiamo tecnicamente in antitutela, cioè togliamo la sanzione se c'è un errore, che può capitare, siamo nell'ordine del 4% degli errori, noi interveniamo. Certamente le cifre sono tante, però noi perché un 4% degli errori su 4% degli errori su 800.000 sanzioni, quindi non è una cifra bassa. Certo, però io penso che l'errore in ogni procedura c'è, poi possiamo pensare di ridurlo, però avere un tasso del 4% dell'errore, poi sicuramente ci sarà qualcuno più bravo di noi, però ecco, non mi sembra un tasso esagerato degli errori. Però ribadisco, il non fare questa cosa voleva dire praticamente mandare in prescrizione queste cose e quindi dire il cittadino che paga subito ha pagato, quello che non paga alla fine fa il furbo e non pagherà più, e questo noi lo riteniamo inaccettabile e anzi stiamo cercando di mandare queste cose per diminuire il tempo tra cui sì. C'è il pagamento, in modo da diminuire anche gli interessi che poi il cittadino si trova a verificare. Allora. In più abbiamo aumentato gli sportelli, abbiamo fatto anche adesso in gennaio, abbiamo un'apertura straordinaria al sabato, siamo aperti anche al pomeriggio, abbiamo potenziato anche il sito, certamente allora, in alcune ore il sito sarà un po' intasato. Assessore, io devo chiudere, la ringrazio, così come ringrazio Gianni Trovati, e è un tema che abbiamo voluto affrontare perché siamo certi che nei prossimi mesi è un tema che ritornerà in campo, come dicevamo. Ed è tutto per Effetto Giorno, ringraziamenti Filippo Aureggi in regia, Laura Faggin in redazione, un grazie a tutti voi per l'ascolto come sempre e anche a tutta la redazione di Radio 24. Effetto Giorno @radio24.it per scriverci e la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. La trasmissione torna come sempre domani alle 13 e noi ci risentiamo tra un attimo con GR24.